Il tuo profilo è un mio paesaggio frenetico, tenuto a distanza è un falso fuoco d'amore che è minimo, è morto.